Ecco, Ave Maria, con un po' di ritardo, questa sera cominciamo il nostro incontro, siamo arrivati al re Salomone, successore di Davide. Salomone è una figura propizia per il tempo di Natale, perché Salomone è nella Sacra Scrittura l'immagine duplice del re sapiente, ed è stato anche il costruttore del Tempio di Gerusalemme, del primo grandioso Tempio eretto a Dio, diciamo così, all'interno di una religione rivelata. Cioè, i templi a Dio sono stati eretti da sempre in tutte le religioni, anche nel paganesimo, anche i romani avevano dei grandiosi templi eretti alla divinità, però Salomone è stato il primo a costruire, famosissimo Tempio di Salomone, sapete che era una delle sette meraviglie della terra, in onore di Nostro Signore. È una storia da un lato molto edificante, perché Salomone ha avuto una grandissima ascesa, una grandissima e gloriosa ascesa, però ha avuto un'altrettanto ignominiosa, come vedremo, discesa. Cioè, la storia di Salomone comincia molto bene, ma finisce molto molto male. Quindi è una storia molto istruttiva, sia su come si raggiunge l'apice del bene, sia però su come si può cadere in basso. Quindi riflettere sulla storia di Salomone deve aiutarci anche un pochino ad essere sempre umili, perché San Paolo scrive nelle sue lettere: chi crede di stare in piedi stia attento a non cadere, perché non esiste nessuna posizione e nessuna roccaforte di santità in cui, fino a quando siamo in questa valle di lacrime, possiamo sentirci tranquilli, al sicuro o al riparo dalle tentazioni o dalle possibili cadute o addirittura capitomboli, come purtroppo è accaduto a questo glorioso, a questo pur glorioso personaggio biblico. Adesso andiamo a vedere un pochettino la storia. Allora, ci abbiamo la sapienza e la costruzione del Tempio, le due caratteristiche che hanno segnato il regno di Salomone. La volta scorsa abbiamo visto la morte di Davide, Davide aveva eletto come suo successore Salomone, e Salomone, la prima cosa che vedremo, è l'ascesa al trono. Allora, anzitutto il primo passo, ecco, davvero molto edificante, che andremo a leggere, è il famosissimo sogno di Gabaon, lì dove Salomone, vedremo, che cosa chiede a Dio. Ecco, il sogno di tutti. A un certo punto Dio gli appare e gli chiede: qual è il tuo più grande desiderio? Ecco, adesso ci mettiamo in ascolto, un attimo che non mi ricordo più il riferimento. Primo Re 3, versetti dal 4 al 15. Dici: allora, il re andò a Gabaon, comincio a leggere dal versetto 4, per offrirvi sacrifici, perché gli vi sorgeva l'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con amore grande, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore, gli hai dato un figlio che siede sul suo trono come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa, e Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole, ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria, come a nessun altro fra i re, per tutta la tua vita. Se poi camminerai nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandi, come ha fatto Davide, tuo padre, prolungherò anche la tua vita. Salomone si svegliò, ecco, era stato un sogno. Andò a Gerusalemme, stette davanti all'arca dell'alleanza del Signore, offrì olocausti, compì sacrifici di comunione e diede un banchetto per tutti i suoi servi. Allora, questo brano capite subito l'altissimo valore istruttivo che ha. Innanzitutto Salomone ci insegna la cosa più importante da chiedere a Dio, che lui chiede discernimento nel giudicare, doveva essere re, doveva stare attento a come governare il suo popolo. Ora, il dono del discernimento, che per noi cristiani consiste un po' con quella che San Tommaso chiamava la regina delle virtù, che è la prudenza. La prudenza si definisce in teologia morale come la retta ragione delle cose da farsi, è assolutamente fondamentale, perché se noi non abbiamo il discernimento, quindi la capacità di distinguere, come lui dice, il bene dal male, di capire cose bene, cose male, cose da farsi, cose da non farsi, la nostra vita diventa un disastro, ed è questa in assoluto la cosa più importante. Tanto è vero che San Tommaso d'Aquino, vi ripeto, definisce la prudenza la regina delle virtù morali, perché senza la prudenza tutte le altre virtù sono assolutamente impraticabili. E vedete, Dio gradisce questa cosa perché gli aveva chiesto questo e non benesseri di tipo materiale, quindi la longevità, la lunga vita, i soldi oppure la distruzione dei suoi nemici. Avete visto che Dio gli dà insieme al discernimento anche la gloria terrena e anche tutte le cose che Dio non gli aveva chiesto. Ecco. Voi capite che questo è un pochettino un prodromo, un tipo di ciò che Gesù ha insegnato nel Vangelo. Cosa ha insegnato Gesù nel Vangelo? Che chi cerca la sua vita la perde e chi perde la sua vita la trova. Il giovane ricco a cui Gesù aveva chiesto tutto, di lasciare tutto per lui, si era andato via triste, quindi ha perso lui e ha perso tutto. Invece quando San Pietro chiede al Signore, dice: ma noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa succede? Dice: chi avrà ancora lasciato case per me e per il mio regno riceverà 100 volte tanto in case, regno e in secolo futuro la vita eterna. Cioè questa verità si esprime dicendo un piccolo motto, che chi lascia Dio per il mondo perde Dio e perde il mondo, e chi lascia il mondo per Dio trova Dio, e spesso Dio gli concede anche quanto è necessario, ovviamente santamente, secondo il mondo. Questa è stata l'esperienza di Salomone. Salomone poi scriverà una preghiera stupenda nel libro della Sapienza, un inno meraviglioso al libro della Sapienza, qualcosa veramente di stupendo, dove dirà che con lei, cioè con la Sapienza, che si esprime anzitutto nell'arte del giudicare, mi sono venuti tutti i beni. E dirà anche che invece senza la Sapienza nessun bene è veramente tale. Quindi questa è la prima grande performance di Salomone. Poi c'è la seconda, che è il seguito immediato di ciò che abbiamo appena letto, che è il primo caso in cui Salomone mette in pratica il discernimento. Quindi una situazione difficile che gli viene sottoposta, adesso lo vedremo, due prostitute che si contendono un figlio, e vedremo come lui decide e discerne. Quindi è un esempio, insomma, di come inizia subito ad applicare il suo alto discernimento. Un giorno vennero dal re due prostitute e si presentarono innanzi a lui. Una delle due disse: perdona mio signore, io e questa donna abitiamo nella stessa casa, io ho partorito mentre lei era in casa, 3 giorni dopo il mio parto anche questa donna ha partorito, noi stiamo insieme e non c'è nessuno estraneo in casa fuori di noi due. Il figlio di questa donna è morto durante la notte perché lei gli si era coricata sopra. Ella si è alzata nel cuore della notte, ha preso il mio figlio dal mio fianco mentre la tua schiava dormiva e si era messo in seno, e sul mio seno ha messo il suo figlio morto. Al mattino mi sono alzata per allattare mio figlio, ma ecco, era morto. L'ho osservato bene al mattino, ecco, non era il figlio che avevo partorito io. Altra donna disse: non è così, mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto. E quello al contrario diceva: non è così, quello morto è tuo figlio, il mio è quello vivo. E delle femmine, discutevano così alla presenza del re. Il re disse: costei dice mio figlio è quello vivo e il tuo è quello morto, mentre quella dice non è così, tuo figlio è quello morto e il mio è quello vivo. Allora il re ordinò: andate a prendermi una spada. Portarono una spada davanti al re. Quindi il re aggiunse: tagliate in due il bambino, facciamo metà per uno, giusto? E date una metà all'una e una metà all'altra. Quindi se stanno a decidere, che quindi facciamo contenti tutti e due. La donna il cui figlio era vivo si rivolse al re, poiché le sue viscere si erano commosse per il suo figlio, e disse: perdona mio signore, date a lei il bimbo vivo, non dovete farlo morire. L'altra disse: non sia né mio né tuo, tagliate. Di chi era il figlio? Presa la parola, il re disse: date alla prima il bimbo vivo, non dovete farlo morire, quella è sua madre. Tutti gli israeliti seppero dalla sentenza pronunciata dal re e provarono un profondo rispetto per il re, perché avevano constatato che la sapienza di Dio era in lui per rendere giustizia. Questa qualche prete l'ha applicata per dissuadere qualche donna da abortire, una cosa simile, perché c'aveva già qualche figlio nato, era rimasto incinto e voleva abortire. Alt, andava a prendere una pistola vera, carica, ha detto: guarda, io ti do questa, apri la bocca del tuo figlio di 6 anni, gliela pianti in bocca e gli spari in bocca e ti tieni quello che c'è nel grembo. Siamo d'accordo? Giusto, no? Tanto che problema c'è? Mazzi uno, mazzi l'altro, la stessa cosa, no? Ecco. E poi non ha abortito più. Ok, a questo punto seguono una serie di capitoli, diciamo così, dell'exploit, della fama di Salomone. Noi poi vedremo anche la visita della regina di Saba, di cui parla Gesù nel Vangelo più avanti, e c'è una specie di sommarietto, insomma un trafiletto al capitolo quinto, che ci fa comprendere la fama che aveva raggiunto Salomone. Andiamo a vedere. Dov'è? 5:9-14. Dio concesse a Salomone sapienza e intelligenza molto grandi, una mente vasta come la sabbia che è sulla spiaggia del mare. La sapienza di Salomone superava la sapienza di tutti gli orientali e tutta la sapienza dell'Egitto. Egli era più saggio di tutti gli uomini, più di Etan l'Ezraita, di Eman, di Calcol, di Darda, figli di Macol. Il suo nome era famoso fra tutte le genti limitrofe. Salomone pronunciò 3.000 proverbi, le sue odi furono 1.005. Le odi di Salomone sono un libro apocrifo, molto bello, non è entrato nel canone. Credo che stia almeno in alcuni dei canoni dei libri dell'Antico Testamento riconosciuti almeno da alcune correnti della religione israelitica. Parlò delle piante, dal cedro del Libano all'issopo che sbuca dal muro, parlò delle bestie, degli uccelli, dei rettili e dei pesci. Da tutte le nazioni venivano per ascoltare la sapienza di Salomone, mandati da tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua sapienza. Tenete presente che Salomone, stiamo intorno, è morto nel 931, sì, se non ricordo male, non dovrei ricordare male, quindi stiamo ben prima dei primi filosofi greci. Talete è posteriore a Salomone, che è il filosofo da cui tradizionalmente inizia la storia della filosofia. Qui dovremmo dire che il primo grande filosofo è stato Salomone, perché ha affrontato gli stessi temi in cui si cimentavano un tempo i filosofi. I filosofi un tempo non stavano soltanto a fare discorsi, ma si occupavano di botanica, di zoologia, di tutte quelle che oggi sono per noi delle branche ben definite, insomma, delle scienze dello scibile umano. Quindi è diventato un grandissimo sapiente. Poi, a questo punto, vediamo Salomone compiere l'impresa, quindi per cui era salito sul trono, quindi la costruzione del Tempio. Ecco, quindi anzitutto il progetto, vi ricordate che a un certo punto Davide voleva costruire un Tempio al Signore, il Signore gli dice no, tu hai sparso troppo sangue, il Tempio lo costruirà tuo figlio, e a un certo punto il figlio prende coscienza di questo e comincia a progettare i preparativi per il Tempio. Chiram re di Tiro mandò i suoi servi da Salomone perché aveva sentito che l'avevano unto re al posto di suo padre. Siamo sempre al capitolo 5, versetti 15 e seguenti. Infatti Chiram era stato sempre amico di Davide. Salomone mandò a dire a Chiram: tu sai che Davide, mio padre, non ha potuto edificare un tempio al nome del Signore suo Dio a causa delle guerre che i nemici gli mossero da tutte le parti, finché il Signore non li prostrò sotto la pianta dei suoi piedi. Ora il Signore mio Dio mi ha dato pace da ogni parte e non ho né avversari né particolari difficoltà. Ecco, ho deciso di edificare un tempio al nome del Signore mio Dio, come ha detto il Signore a Davide mio padre. Tuo figlio, che io porrò al tuo posto sul tuo trono, lui edificherà un tempio al mio nome. Ordina dunque che si taglino per me cedri del Libano, i miei servi saranno con i tuoi servi, ed io ti darò come salario per i tuoi servi quanto fisserai. Tu sai bene che fra noi nessuno è capace di tagliare il legname come sanno fare quelli di Sidone. Ecco, nei capitoli seguenti si vedono tutte quante le varie fasi di preparazione e di costruzione del Tempio, tra cui, andate a leggere tranquillamente perché sarebbe notevolmente dispendioso da un punto di vista di tempo andare a leggere passo per passo, si nota subito come Salomone esercita e pratica una virtù molto importante che si chiama tecnicamente la magnificenza. La magnificenza, che secondo San Tommaso d'Aquino è una parte integrante della virtù cardinale della fortezza. Magnificenza viene dal latino magnum facere, cioè fare cose grandi, come diciamo noi, fa le cose in grandi, cioè per costruire il Tempio del Signore non bada a spese. Ori, cedri, legni preziosissimi, di tutto e di più. Dopo aver detto che il Tempio di Salomone era considerato una delle sette meraviglie della terra e Dio è stato contento di questa cosa. Quindi fin dal primo tempio costruito in onore di nostro Signore, ecco, bisogna prendere esempio del fatto che quando si tratta delle cose di Dio non si bada a spese, si fanno le cose in grandi, cioè è una virtù. Cioè un prete deve essere povero per le cose sue, non per le cose che riguardano il Tempio di Dio. Questo è un insegnamento che ha dato non soltanto Gesù Cristo e prima di lui Salomone, ma che hanno dato tutti quanti i santi messi assieme. Per esempio, un mio grande modello che è il santo curato d'Ars, che praticava a livello personale una povertà e un'austerità da paura, nel senso che un paio di scarpe, una veste talare, mangiava un giorno sì una tazza di latte, 40 no, proprio zero per lui. È stato per 40 anni ad Ardi e ad Arzio non ha mai cessato di fare continuamente lavori di abbellimento e di ristrutturazione della sua chiesetta, prendendo molti dei soldi dalle tasche proprie, personali. I paramenti sacri del santo curato d'Ars erano i più belli di tutti. Il problema è che raccontano i biografi che quando entrava nei negozi di articoli sacri, quelli che lo vedevano questo che sembrava morto di fame. E quando questo cominciava a chiedere i camici, le pizzole, le nere che costavano, dice: ma i negozianti erano tutti preoccupati, dice: ma dove via questi soldi e pagare queste cose? E invece sempre pagavo tutto. L'ha presi e li ha pagati. Ecco, allora il motivo per cui per le cose di Dio si fanno le cose in grandi è molteplice. Numero uno, perché è una forma di culto reso a nostro Signore, perché Dio si merita questo, e molto di più, perché quantunque tu facesti, dopo lo vedremo, perché c'è qualcosa anche qui, un tempio che possedesse tutto l'oro del mondo è niente in confronto a quello che Dio si merita, zero, d'accordo? E una delle cose che costa di più all'uomo è mettersi le mani in tasca, d'accordo? Perché non avendo tante altre cose da fare, c'ha questo. Numero due, il motivo per cui si devono fare le cose in grande è che Dio a un certo punto, lo vedremo, prende possesso del tempio, quindi non è una cosa metaforica, è una cosa reale, nel senso che noi sappiamo, voi avete studiato il catechismo di San Pio X, che Dio è onnipresente, cioè Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo, ma ci sono dei luoghi dove la sua presenza è, come dire, in un certo senso più intensa. Perché è vero che Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo, no? Però vi posso dire, Dio è presente qui in questa stanza adesso, nello stesso modo con cui è presente in paradiso ed è contemplato dai beati che adesso in questo momento lo stanno vedendo, è uguale la presenza che Dio ha qui a quella che ha lì, secondo voi? È uguale? No. Se qualcuno di voi qui in questo momento sta avendo la visione beatifica, alzi la mano, così ci darà la conferma del fatto che è uguale. Evidentemente non è uguale, ecco. Così anche nell'Antico Testamento, quindi quando non c'era come nei nostri templi la presenza reale, Dio, vedremo che in maniera chiara fa capire che prende possesso del tempio, cioè che in un certo senso misterioso ma reale lo abita. Quindi è il luogo in cui l'uomo lo può incontrare ed è anche in un certo senso la casa di Dio, che dovrebbe essere, per quanto possibile, il riflesso della casa in cui Dio abita, come dire, essenzialmente, che è il paradiso, ecco. Quello che i classici chiamavano l'iperuranio, o come si dice, il cielo empireo, lo chiama Dante nella Divina Commedia. Ecco, quindi c'è questa duplice dimensione: da un lato il tempio splendido è una forma di culto reso a Dio. Perché oggi vanno le chiese che fanno tutte tante vomitare? Uno, perché nessuno rende culto a Dio, uno. Secondo, perché nessuno al paradiso ci crede, insomma. Ecco, questa è una mia idea personale, quindi fatene. Tra di fatto che quando ci credevano un pochino di più, ci sono alcune chiese che appena uno entra dentro ti viene l'angoscia e l'afflizione, insomma. Quindi anziché venite un pochino di fede, se tante volte te ne fosse rimasta ancora un po', ecco, la lasci dentro quella chiesa e così esci che t'è finita del tutto. Ecco, quindi una delle poche cose su cui sono tutti d'accordo è che la chiesa di Borgo San Michele è diventata bella. Questa tra le pochissime cose su cui sono tutti d'accordo al positivo, ecco. Strano, eh? Aspettate che adesso andiamo a vedere la scena della presa di possesso, che è il capitolo 8, i versetti 10 e 13. Allora, quindi nei capitoli dal 5 all'8 ci sono tutti i preparativi, la costruzione, l'arca dell'alleanza, come viene preparata, eccetera, eccetera. Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube, vedete quella nube che avevamo visto nell'Esodo, che era il segno della Shekinah, della presenza di Dio, riempì il tempio del Signore. E i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore riempiva il tempio del Signore. Allora Salomone disse: il Signore ha deciso di abitare nella nube oscura, ho voluto costruirti una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno. Quindi, tenendo presente questo, poi vedremo più avanti quando faremo soprattutto i profeti, perché poi salteremo adesso una parte dei libri storici. Pensate alla tragedia di quando il Tempio di Salomone è stato distrutto, perché è stato distrutto nel 586 avanti Cristo, quindi 300, circa 300, 400, 350 anni dopo rispetto alla data in cui è stato costruito e dedicato. perché la distruzione del Tempio è un castigo di Dio, quindi distruggere il Tempio voleva dire che Dio aveva smesso di abitare in mezzo al suo popolo a causa dei suoi peccati. Questo è fondamentalmente il significato teologico della distruzione del Tempio. Quindi, andando avanti, c'è un magnifico discorso, una magnifica preghiera che subito dopo Salomone fa nel Tempio, appena, diciamo così, consacrato da Dio in persona con la sua presenza. È molto lunga, quindi ne leggeremo alcuni stralci. Il re si voltò e benedisse tutta l'assemblea di Israele, mentre tutta l'assemblea di Israele stava in piedi, e disse: benedetto il Signore Dio di Israele, che ha adempiuto con le sue mani quanto con la bocca ha detto a Davide mio padre, da quando ho fatto uscire, eccetera. E versetto 20: il Signore ha attuato la parola che aveva pronunciato, sono succeduto a Davide mio padre e siedo sul trono di Israele, e ho costruito la casa al nome del Signore Dio di Israele. Versetto 23: Signore Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né qua giù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide mio padre quanto gli avevi promesso, quanto avevi detto con la bocca l'hai adempiuto con la tua mano come appare oggi. Ora Signore Dio di Israele, mantieni nei riguardi del tuo servo Davide mio padre quanto gli hai promesso, dicendo: non ti mancherà mai un discendente che stia davanti a me e sieda sul trono di Israele, purché i tuoi figli veglino sulla loro condotta camminando davanti a me come hai camminato tu davanti a me. Versetto 27: ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Questa è una domanda molto... ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto: lì porrò il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel luogo della tua dimora in cielo, ascolta e perdona. Attenzione, una prima piccola parentesi. Allora, vedete che Salomone sta pregando nel Tempio e sta chiedendo al Signore che ascolti in maniera particolare le preghiere che gli vengono rivolte dal luogo sacro. E questa cosa è vera anche per noi, perché pregare in chiesa non è la stessa cosa che pregare fuori del luogo sacro. Questo lo si capisce perché, per esempio, non so, qualche volta l'ho detto, quindi forse qualcuno se lo ricorda, se voi prendete per esempio il manuale delle indulgenze, l'Enchiridium Indulgentiarum, trovate scritto: se io dico un rosario c'è l'indulgenza? Sì, però se lo dici fuori della chiesa c'è l'indulgenza parziale, se lo dici in chiesa c'è l'indulgenza plenaria, per esempio. Oppure c'è l'indulgenza plenaria per mezz'ora di adorazione al Santissimo Sacramento, anche a tabernacolo chiuso, ma il Santissimo Sacramento si trova in chiesa. Quindi ovviamente la preghiera fatta in chiesa è preghiera che è qualitativamente, a parità di condizione ovviamente, tenete presente se una persona può, eccetera eccetera, perché se uno viene incarcerato e messo in galera durante una persecuzione e non può andare manco a messa, voi capite benissimo che la preghiera fatta da lì vale il doppio di quella fatta in chiesa, ovviamente, no? Quindi se ci sono le condizioni, se ci sono le possibilità, ha un valore più grande agli occhi di Dio. Questa è una cosa che, di cui dobbiamo prendere atto e di cui dobbiamo regolarci di conseguenza. Non è un caso che tutti quanti i santi preti passavano le giornate intere in chiesa, stava tutto il giorno lì dentro, quindi chi voleva incontrarlo li trovava sempre lì dentro. Il curato d'Ars stava quasi tutto il giorno in chiesa, Padre Pio stava quasi tutto il giorno in chiesa, e San Vincenzo De Paoli, nonostante che stesse al servizio dei poveri, quando non stava al servizio dei poveri stava in chiesa, eccetera eccetera eccetera. Allora, ecco, diamo l'ultima parte. Quando Salomone ebbe finito di rivolgere al Signore questa preghiera, si alzò davanti all'altare del Signore, dove era inginocchiato con le palme tese verso il cielo. si mise in piedi e benedisse tutta l'assemblea di Israele a voce alta. Benedetto il Signore che ha concesso tranquillità a Israele e suo popolo, secondo la sua parola. Non è venuta meno neppure una delle sue parole che aveva pronunziato per mezzo di Mosè, suo servo. Il Signore nostro Dio sia con noi come è stato con i nostri padri, non ci abbandoni e non ci respinga, ma volga piuttosto i nostri cuori verso di Lui perché seguiamo tutte le sue vie e osserviamo i suoi comandi, le leggi e le norme che ha ordinato ai nostri padri. Queste mie parole usate da me per supplicare il Signore siano presenti davanti al Signore nostro Dio giorno e notte perché renda giustizia al suo servo e a Israele suo popolo secondo le necessità di ogni giorno affinché sappiano tutti i popoli della terra che il Signore è Dio e che non ce n'è altri. Il vostro cuore sarà tutto dedito al Signore nostro Dio perché cammini secondo le sue leggi e osservi i suoi comandi come avviene oggi. Ora a questo punto c'è l'episodio celebre della regina di Saba. Vi ricordate, di questo ne parla Gesù nel Vangelo, che la regina del sud, la regina di Saba, venne da lontano per ascoltare la sapienza di Salomone, lui dice, ed ecco ben più di Salomone c'è qui. Siccome un episodio importante che Gesù recita nel Vangelo, lo leggiamo un attimo insieme. Si tratta del capitolo 10, versetti 1 e 13, sempre del primo libro dei Re. La regina di Saba, sentita la fama di Salomone dovuta al nome del Signore, venne per metterlo alla prova con enigmi. Arrivò a Gerusalemme con un corteo molto numeroso, con cammelli carichi di aromi, oro in grande quantità e pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli parlò di tutto quello che aveva nel suo cuore. Salomone le chiarì tutto quanto ella gli diceva. Non ci fu parola tanto nascosta al re che egli non potesse spiegarle. La regina di Saba, quando vide tutta la sapienza di Salomone, la reggia che egli aveva costruito, datela a vedere, è un episodio che abbiamo saltato perché lui ha costruito un grandioso tempio per Dio e una grandiosa reggia per sé. I cibi della sua tavola, il modo ordinato di sedere dei suoi servi, il servizio dei suoi domestici e le loro vesti, i suoi coppieri e gli olocausti che gli offriva nel Tempio del Signore, rimase senza respiro. Quindi attenzione anche a tutti questi piccoli particolari, ecco, che ci fanno ricordare l'importanza della virtù della modestia, la modestia che regola il compimento dei nostri gesti esterni. Anche come si mangia a tavola, quindi una volta si mangiava un po' meglio di come si mangia adesso, va bene. Quindi disse al re: era vero dunque quanto avevo sentito dire nel mio paese sul tuo conto e sulla tua sapienza? Io non credevo a quanto si diceva finché non sono giunta qui e i miei occhi non hanno visto. Ebbene, non ce n'era stata riferita neppure una metà. Quanto alla sapienza e alla prosperità, superi la fama che io ne ho udita. Beati i tuoi uomini, beati questi tuoi servi che stanno sempre alla tua presenza e che ascoltano la tua sapienza. Sia benedetto il Signore tuo Dio che si è compiaciuto di te così da collocarti sul trono di Israele, perché il Signore ama Israele in eterno e ti ha stabilito re per esercitare il diritto e la giustizia. Ella gli dà re 120 talenti d'oro, non so se vi fate un'idea di grandezza di quanto possa essere una cosa del genere, aromi in gran quantità e pietre preziose. Non arrivarono più tanti aromi quanti ne aveva dati la regina di Saba al re Salomone. Inoltre la flotta di Chiram, che caricava oro da Ofir, recò da Ofir legname di sandalo in gran quantità e pietre preziose. Con il legname di sandalo che ci ha fatto il re, fece ringhiere per il tempio del Signore e per la reggia, cetre e arpe per i cantori. Mai più arrivò, né mai più si vide fino ad oggi, tanto legno di sandalo. Il re Salomone diede alla regina di Saba quanto lei desiderava e aveva domandato, oltre quanto le aveva dato con munificenza degna di lui. Quindi ella si mise in viaggio e tornò nel suo paese con i suoi servi. Quindi questo è il famoso episodio che ci fa comprendere che essa si è fatto un viaggio, la regina di Saba, non indifferente per andare a sentire Salomone. Ecco. Così come i re magi si sono fatti un viaggio non indifferente per andare a sentire i re magi. Ecco, così come voi siete fatti un viaggio non indifferente per andare a sentire l'incontro biblico. Avete fatto 50 metri, chi ha capito qui? Questo comunque per dirci, è quando gli sta di mezzo la sapienza, non si bada, un'altra volta qui non si bada a spese, d'accordo? Perché Se il Padre Eterno manda qualche persona sapiente in qualche parte del mondo, bisogna partire. Ho detto tante volte che quando era vivo il grande Padre Pio, guardate che ci sono delle, guardate che adesso se volete, a me mi è arrivato un po' di materiale che ci sarebbe veramente da andarsi a divertire, perché una santa persona che è venuta con noi a Fatima mi ha mandato un pacco grosso così, contenente DVD e CD di uno dei più grandi figli spirituali di Padre Pio, che è Don Attilio Negrisolo, un prete che sarà presto fatto santo, che ha passato i guai grossi perché è stato travolto nella persecuzione contro Padre Pio. Pensate, questo è stato 10 anni senza messa, sospeso a divinis, e 7 anni con proibizione di portare addirittura la veste talare, quindi non poteva neanche vestirsi da prete per il grande peccato che aveva fatto di stare dietro a Padre Pio. E le accuse che avevano fatto a Padre Pio erano terribili, perché siccome voi capite che si era mosso mezzo mondo per andare lì, l'invidia dice: questa è una chiesa scismatica, è stata creata la chiesa di Padre Pio in alternativa alla chiesa cattolica, perché effettivamente, cioè, sono ingiustificabili queste cose qui. Però vi ho immaginato una persona esterna che vede, dice la gente che partiva dagli Stati Uniti, ma tutti i giorni, per andare a parlare con Padre Pio 3 minuti. Non so se ora tutto normale, se uno si legge la Bibbia, perché se la regina di Saba è partita per andare a sentire Salomone, che Padre Pio era meglio di Salomone, quindi non c'è nessun problema. Certo che se uno non ha dei parametri di fede, i problemi ci stanno. Quindi questo è un altro criterio di discernimento e di operatività, perché sentire la sapienza è fondamentale, indispensabile per noi, perché se ne va del bene della nostra anima. Quindi quando si deve fare una cosa che è per il bene della nostra anima, non si balla a specie. Quanti soldi costa partirsi dagli Stati Uniti per andare a fare 3 minuti di confessione con Padre Pio? Un sacco di soldi costa. Se bisogna darli ai poveri? Sono soldi buttati? Sono esagerazioni? Lasciamo le domande senza risposte, perché la parola di Dio che stiamo ascoltando, la risposta ce l'ha già, insomma, no? Sono domande retoriche alla luce di quello che abbiamo ascoltato. Ecco. Adesso però cominciano le dolenti note, perché Salomone purtroppo, ecco, che succede? Che viene rovinato dalle donne. Le donne nella Bibbia, guardate, salvo qualcuna, ecco, c'è sta Eva che ha combinato un guaio, Dalila che ha rovinato Sansone, queste altre donnacce che hanno rovinato Salomone, più molte altre, le vedremo poi, Jezabele ai tempi di Elia, bella fenomena, e qualche altra veramente. Comunque, speriamo che le donne che sono qui presenti somiglino a Maria Santissima, a Santa Elisabetta, a Sant'Anna, la madre di Samuele, a Ruth, che poi conosceremo, a Giuditta, ad Esther, eccetera, eccetera, perché se no qui andiamo veramente, dicono in Sicilia, a schifio. Allora, andiamo a vedere queste belle prodezze, ecco. Purtroppo non avevano ancora inventato la televisione ai tempi di Salomone, perché se avesse guardato la televisione, che non è cosa raccomandabile, sicuramente avrebbe combinato meno guai. Il re Salomone amò molte donne straniere, oltre alla figlia del faraone, moabite, ammonite, edomite, sidonie e ittite, provenienti dai popoli di cui aveva detto il Signore Israele: non andate da loro, ed essi non vengano da voi, perché certo faranno deviare i vostri cuori dietro i loro dei. Siccome le donne, tra le cose che hanno, anche se fanno fare agli uomini tutto quello che vogliono, perché gli uomini sono sempre un po' fessacchiotti, che fa? Salomone si legò a loro per amore, aveva soltanto 700 principesse per mogli, chi lo sa come faceva a dargli retta a tutte quante, e 300 concubine, in totale 1000, ecco. Quindi Davide c'aveva qualche concubina, insomma, però le sue donne gli fecero deviare il cuore. Quando Salomone fu vecchio, le sue donne gli fecero deviare il cuore per seguire altri dei. Ma guardate che combina, eh? E il suo cuore non restò integro con il Signore, suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Salomone addirittura seguì Astarte, dea di quelli di Sidone, e Milcom, Obrom, ebreo degli Ammoniti. In queste religioni si facevano pure i sacrifici umani. Questi erano culti resi al demonio attraverso questi falsi dei. Erano delle cose atroci. Salomone commise il male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore. Costruì un'altura addirittura per Camus, ancora, obbrobrio dei Moabiti, sul monte che è di fronte a Gerusalemme, e un'altra, e anche per Moloch, obbrobrio degli Ammoniti. Allo stesso modo fece per tutte le sue donne straniere. Quindi ogni divinità, quindi ha fatto il tempio e poi ha costruito un'altra caterva per queste cose. Il Signore perciò si sdegnò con Salomone, perché aveva deviato il suo cuore dal Signore, Dio di Israele, che gli era anche apparso due volte, e gli aveva comandato di non seguire altri dei. Ma Salomone non osservò quanto gli aveva comandato il Signore. Attenzione, questo ricordiamo il peccato di Davide, perché la causa di questo è stata, subito appena morto Salomone, il regno di Israele si è spaccato in due, ha perso l'unità, si è diviso nel regno del nord e nel regno del sud. Dopodiché, 200 anni dopo, gli Assiri hanno fatto secco, vi ricordate l'introduzione, il regno del nord. È rimasto vivo il regno del sud, con il re uno peggio dell'altro. Adesso comincia un declino proprio pazzesco. Non esce fuori più un re sano fino a quando non ritornano dall'esilio e ricostruiscono il tempio, dovevano aspettare 500 circa, quindi 400 anni di disastri. Allora, il Signore disse a Salomone: poiché ti sei comportato così e non hai osservato la mia alleanza né le leggi che ti avevo dato, ti strapperò via il regno e lo consegnerò a un tuo servo. Tuttavia non lo farò durante la tua vita, ma per amore di Davide tuo padre. Lo strapperò dalla mano di tuo figlio, ma non gli strapperò tutto il regno. Una tribù la darò a tuo figlio per amore di Davide suo servo, mio servo, e per amore di Gerusalemme che ho scelto. Subito dopo, dal 14 in poi, cominciano a uscire gli avversari di Salomone, che cominciano a ordire le rivolte. Il primo è Adad, il secondo è Razzon e il terzo è Geroboamo. Quindi, fine della pace, fine della tranquillità. Salomone poi muore, adesso leggeremo l'episodio, capitolo 11, versetti 41-43, triste morte, non in grazia di Dio, perché non si pente poi, tra l'altro, quindi speriamo che stia in paradiso. Però, insomma, le altre gesta di Salomone, tutte le sue azioni e la sua sapienza, non sono forse descritte nel libro delle gesta di Salomone. Il tempo in cui Salomone aveva regnato a Gerusalemme su tutto Israele fu di 40 anni. Salomone si addormentò con i suoi padri e fu sepolto alla città di Davide suo padre. Al suo posto divenne re suo figlio Roboamo, personaggio già lui altamente negativo. Ecco, questa è la storia di Salomone, e dall'ultima parte bisogna imparare, riprendiamo insomma, dalla storia di Salomone si impara che bisogna stare molto attenti, perché attraverso le donne è andato a commettere il peccato di idolatria. Questo contiene, diciamo così, anche un'attenzione, cioè in senso molto remoto, ecco, si può trarre un insegnamento, nel senso che uno deve stare attento a chi si sposa. Perché, ecco, l'accordo coniugale richiede, ci ho fatto la catechesi oggi sul Radio Buon Consiglio, una sostanziale unità di vedute, perché quando non c'è un'unità di vedute, inesorabilmente qualcuno trascina dalla parte dell'altro. Ecco. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come è nel principio.